Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Nuovo record del debito pubblico a luglio tocca i 2.560 miliardi. Allarme Europol sui fondi europei, le mafie puntano a mettere le mani sul recovery fund. Arrestato dalla polizia, Johnny lo zingaro dopo la fuga si nascondeva in un casale di campagna. Il prete degli ultimi ucciso in piazza a Como ad agire un senza tetto con problemi psichici. Oggi a Caivano i funerali di Maria Paola Gaglione, morta mentre scappava dal fratello che non accettava la sua relazione. La famiglia invita la comunità LGBT. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione ben ritrovati con le notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con i dati di Banca Italia che parlano di un nuovo record del debito pubblico, 2.560 miliardi, si tratta in realtà di dati in qualche modo attesi. Il governo nelle ultime mesi ha speso molto per cercare di sostenere l'economia colpita dalla crisi del coronavirus. Intanto il ministro dell'economia Gualtieri sta riferendo proprio in questi minuti sul recovery fund, che, lo ricordiamo, si compone di una parte di soldi a fondo perduto, ma anche di una parte di prestiti. Sentiamo. No, non abbiamo il pezzo e allora andiamo avanti con le altre notizie. Oggi seconda giornata di scuola nelle regioni dove è iniziato l'anno, sentiamo com'è andata, quali altri problemi, se sono emersi degli altri problemi, e invece come si è cercato di risolvere i problemi che sono emersi già ieri, prima giornata, a cominciare dalla mancanza dei banchi in alcune scuole. Mancano gli insegnanti, si stima 100.000 cattedre scoperte su 830.000, quasi uno su otto, soprattutto al centro-nord. E sono solo 200.000 i banchi monoposto arrivati nelle scuole che li avevano chiesti, gli altri 2,2 milioni arriveranno nelle prossime 5 settimane. Questi due problemi hanno indotto alcuni presidi a rinviare l'avvio dell'anno scolastico e molti a organizzare orari ridotti o didattica a distanza alternata alla presenza. Il premier Conte a Norcia per inaugurare una scuola post-terremoto ammette i problemi ma si dice fiducioso. Abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico potrà svolgersi con didattica in presenza. Siamo consapevoli delle criticità, abbiamo lavorato però tanto e continueremo a lavorare per superarle man mano che si presenteranno. La scuola non era ancora pronta ad affrontare in tutto il paese la riapertura, ha detto oggi la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan. Si è perso tempo, ha aggiunto, ora recuperiamo gli errori fatti con un dialogo serio con i sindacati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso sentiamo il servizio annunciato sull'audizione del ministro dell'economia Gualtieri che parla del recovery fund, proprio mentre Banca Italia ha aggiornato le stime in crescita del debito pubblico. Il debito pubblico italiano continua a lievitare e raggiunge un nuovo record. A luglio, secondo Banca Italia, il debito pubblico ha infatti toccato i 2.560 miliardi e mezzo, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente. L'incremento, spiega Banca Italia, riflette, oltre al fabbisogno del mese, l'aumento delle disponibilità liquide del tesoro. Il governo intanto è al lavoro sui conti pubblici in vista della messa a punto del documento programmatico di bilancio da inviare in ottobre a Bruxelles insieme alle linee guida del Recovery Plan. Linee guida che, dice il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte invierà in Parlamento. Next Generation EU Recovery Plan, ribadisce Gualtieri, sono un punto di svolta per modernizzare il paese. Next Generation EU rappresenta per l'Europa e per l'Italia un'occasione irripetibile per uscire da un lungo periodo di stagnazione e dalla crisi senza precedenti che stiamo attraversando a causa della pandemia, tornando allo sviluppo e all'innovazione per investire sul futuro. Le risorse, sottolinea Gualtieri, vanno usate per rilanciare investimenti pubblici e privati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Aumentano intanto i nuclei familiari beneficiari del reddito e pensione di cittadinanza che con il mese di agosto hanno superato quota 1,3 milioni, coinvolgendo nel complesso oltre 3 milioni di persone. Sono i dati aggiornati dell'INPS. Interrogatorio di garanzia oggi per i tre commercialisti vicini alla Lega arrestati per la compravendita di un immobile a prezzo gonfiato. Sentiamo. Rito immediato, visto che le prove sono evidenti. La Procura di Milano pensa di mandare direttamente a processo, saltando l'udienza preliminare, i tre commercialisti vicini alla Lega e i domiciliari nell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission, punto di partenza di indagini allargate a molte altre operazioni finanziarie controverse. Così questo fascicolo finisce per intersecare la caccia ai 49 milioni che la Carroccio dovrebbe restituire allo Stato. Non a caso in settimana arriveranno a Milano per un vertice anche i magistrati di Genova impegnati su questo fronte. E da questo versante l'ultima pista è un bonifico da 19 milioni che conduce fino a Cipro. Dagli atti invece si apprende anche che nei momenti più critici alla Lega si pensò di vendere la sede storica di Via Bellerio, ma il leader Matteo Salvini disse no. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, la pagina politica con gli ultimi giorni di campagna per le regionali e il referendum costituzionale. Palazzo Chigi ferma la voglia di rimpasto all'indomani del referendum e delle regionali. Il PD lo chiede, ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde così. Rispondo col fatto che siamo concentrati sul lavoro. A seguirlo anche i 5 Stelle. Luigi Di Maio precisa: non credo che parlando di rimpasti e cambi di squadra risolviamo i problemi. Li risolviamo se pancia a terra lavoriamo. Ma Nicola Zingaretti insiste: bisogna evitare la palude, il governo deve fare. Intanto prosegue la campagna referendaria. Di Maio spiega che verranno risparmiati 500 milioni di euro ogni 5 anni. All'interno dei partiti però sono molte le defezioni. Nel PD arriva il no al taglio da parte di Piercarlo Padoan, mentre nella Lega si sfila Attilio Fontana dopo Giancarlo Giorgetti sul no al taglio dei parlamentari. Si guarda anche alle regionali, con il centrodestra che si presenta unito nelle sfide, mentre il centrosinistra conclude l'alleanza con il Movimento 5 Stelle solo in Liguria. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la pagina della cronaca. Cominciamo andando a Como per l'uccisione di un prete di 51 anni. Don Roberto Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore dei poveri. Sarà il vescovo della città, Oscar Cantoni, questa sera a guidare un rosario per Don Malgesini e chi lo ha ucciso. Il prete, 51 anni, originario della Valtellina, è stato accoltellato vicino alla chiesa di San Rocco, dove abitava, poco dopo le 7 di mattina. L'aggressore, un senza tetto straniero con problemi psichici, si è costituito ai carabinieri. Don Roberto da anni aveva scelto di stare dalla parte degli ultimi. Era coordinatore del cosiddetto gruppo Colazioni, i volontari che tutte le mattine si preoccupano di portare una bevanda calda ai senza tetto della città. Era sempre in prima linea quando c'era bisogno di aiutare qualcuno, soprattutto migranti ed emarginati. Serviva alla mensa come al dormitorio, aveva confidenza con molte delle persone che incontrava e se qualcuno aveva bisogno di un medico, raccontano, spesso lo accompagnava con la sua auto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo una fuga dal carcere di Sassari durata 9 giorni, si nascondeva in un casale di campagna Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny lo Zingaro, ma la polizia è riuscita a trovarlo e ad arrestarlo di nuovo. Ho fatto una fesseria, lo so. Così Giuseppe Mastini, noto come Johnny lo Zingaro per le sue origini sinti, ha detto agli agenti che stamani l'hanno rintracciato in un casolare nelle campagne sassaresi. Volevo proseguire liberamente la mia relazione sentimentale. E avrebbe aggiunto: si fugge sempre per amore, anche se al momento della cattura era solo e disarmato e non ha opposto alcuna resistenza. Johnny lo Zingaro, 60 anni, era ricercato dal 6 settembre scorso. Dopo un permesso premio non era più rientrato nel carcere di massima sicurezza di Sassari, dove era recluso, e dopo la fuga si è tinto i capelli color biondo platino. La sua biografia potrebbe essere così sintetizzata: 7 evasioni, 2 omicidi, 1 rapimento, 25 rapine e un grande amore. Una storia criminale iniziata a Roma negli anni 70. Johnny Lo Zingaro è stato rintracciato e catturato grazie al lavoro congiunto svolto dal nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria e dalla Polizia di Stato. Indagato per favoreggiamento anche un sassarese che lo ha aiutato a nascondersi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si terranno oggi pomeriggio invece a Caivano, in provincia di Napoli, i funerali di Maria Paola Gaglione, la 22enne morta dopo essere stata speronata dal fratello Michele Antonio, che non accettava la relazione della giovane col suo compagno trans Ciro. Il GIP ha convalidato l'arresto in carcere del trentenne, parlando di una accentuata pericolosità sociale. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. All'estero adesso, un nuovo incendio si è propagato nel centro di Beirut, in un edificio in fase di costruzione realizzato dallo studio del celebre architetto Zaad Hadid. Lo riferiscono i media libanesi, mentre sui social network appaiono diversi video della zona dell'incendio sul lungomare di Beirut. Brexit, Boris Johnson, il premier britannico, sfida Bruxelles ad un braccio di ferro sulle regole commerciali. Sentiamo. Well, passing an act of parliament and then going on to break an international treaty obligation. È David Cameron, l'uomo che, sperando in un esito opposto del referendum, ha dato il via alla Brexit, a unirsi al coro della politica britannica preoccupata che la prova di forza cercata da Boris Johnson con l'Europa di Bruxelles possa produrre guai seri. The Irish Times, prestigioso quotidiano liberale e progressista di Dublino, attribuisce gli ultimi eventi ad un nazionalismo britannico troppo naif per rendersi conto dei propri limiti. Ieri Londra ha intanto portato oltre il primo scoglio della procedura l'Internal Market Bill, il contestatissimo progetto di legge del governo Johnson che mira a rimettere in discussione, attraverso una norma nazionale, alcuni degli impegni internazionali presi da Londra per il dopo Brexit, in quell'accordo di recesso firmato con l'UE che contempla dettagli sullo status commerciale e doganale dell'Irlanda del Nord. Denunciare quanto già firmato con Bruxelles è sicuramente popolare in casa, ma lo espone alla risposta, quella del Consiglio UE che ora è costretto a decidere, tra mediazione e fermezza, col rischio evidente che scegliere la strada consueta, la mediazione, esponga i 27 al perenne ricatto. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:12 minuti, facciamo una piccola pausa. Dopo la sintesi della giornata con le principali notizie, torniamo con gli approfondimenti e torniamo a Genova per vedere com'è andata la seconda giornata di scuola nella classe, la cui foto ha fatto il giro del web, con i bambini seduti senza banchi, che usavano seggiole come banchi. Ha detto poco fa il premier Conte, entro ottobre arriveranno i 2 milioni di banchi attesi nelle scuole italiane. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Nuovo record del debito pubblico, a luglio tocca i 2.560 miliardi. Allarme Europol sui fondi europei, le mafie puntano a mettere le mani sul recovery fund. Il prete degli ultimi ucciso in piazza a Como, ad agire un senza tetto con problemi psichici. Oggi a Caivano i funerali di Maria Paola Gaglione, morta mentre scappava dal fratello che non accettava la sua relazione. Conte, entro ottobre in arrivo i 2 milioni di banchi attesi, secondo giorno di scuola per 5 milioni e mezzo di studenti. Torniamo a Genova per sentire come va nell'istituto dove i bambini non hanno i banchi ancora. Eccoci qua in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, e con noi il professor Renzo Ronconi, dirigente scolastico all'Istituto Comprensivo del quartiere genovese di Castelletto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito, professor Roncone. Allora, poco fa il presidente del Consiglio Conte ha rassicurato ancora sulla questione dei banchi. Arriveranno entro ottobre i 2 milioni, e questa è la cifra complessiva, di banchi ancora attesi nelle scuole italiane. Che si fa però nel frattempo? E questa è la domanda che rimbalza anche nella sua scuola, dove ieri, a dire la verità, è rimbalzata la foto dei bambini che, non avendo i banchi, erano seduti in terra usando le sedie proprio come banchi. Ci racconta un po', anche dal principio, professor Ronconi, come è andata questa vicenda? Cioè, lei intanto dirige una scuola di quanti bambini? Una scuola elementare, giusto? È un istituto comprensivo, quindi comprende scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, quelle che sono note come scuole medie, ecco. Ok. Nel gergo comune. I bambini fotografati, i bambini nella foto erano bambini delle scuole? Delle scuole elementari, perfetto. Lei, come altri presidi quest'estate, ha ordinato, insomma, era in attesa dell'arrivo di questi banchi, per sostituire quelli vecchi, immagino, forse perché erano banchi doppi? Certamente, non io personalmente, ma la scuola che dirigo. Io sono in servizio in questa scuola dal 1 settembre, ma devo dire che ho trovato una scuola che ha lavorato in maniera molto intensa per preparare l'inizio dell'anno scolastico. I banchi sono stati ordinati con largo anticipo. Chiaramente non siamo l'unica scuola che chiede banchi alle aziende che li producono, e tutte le aziende si trovano a dover affrontare un quantitativo di ordinativi assolutamente eccezionale in questo momento. Sì, questo poi è diventato cronaca, esatto, anche nazionale, lo sappiamo. Non siamo l'unica scuola, né a Genova né nel paese. No, ma nessuno sostiene che siate l'unica scuola, assolutamente. Diciamo, la sua scuola ha avuto forse la sfortuna da questo punto di vista, diciamo, dal punto di vista dell'immagine, di essere di entrare forse anche in una lei ha parlato di strumentalizzazione, perché insomma anche oggi l'assessore ligure Cavo ha fatto un post con una nuova foto, ha attaccato duramente il governo. Siete finiti un po' anche in mezzo a questa vicenda. Però mi dice un'ultima cosa: quando avrebbero dovuto arrivare i banchi? Cioè, l'assicurazione era stata data che i banchi sarebbero arrivati che giorno? Guardi, i banchi sarebbero dovuti arrivare con ampio anticipo rispetto all'inizio delle lezioni. Poi, con l'avvicinarsi della data, si sono accumulati ritardi, ma i banchi sono in arrivo per questo pomeriggio. Quindi, per quel che riguarda la mia scuola, il problema oggi pomeriggio verrà risolto. Naturalmente abbiamo dovuto operare questa sostituzione perché i vecchi banchi non ci consentivano il distanziamento. Erano i famosi banchi doppi. Esatto. Ok. Il banco doppio di per sé potrebbe anche consentire il distanziamento, sì, con qualche combinazione fantasiosa, ma bisogna fare i conti non soltanto con i banchi, ma anche con gli ambienti, gli spazi, le metrature. Senta, ma era possibile valutare, diciamo, di non aprire la scuola, aspettare qualche giorno per evitare questa situazione? Sarebbe stato un grandissimo segnale, e anche i miei uffici superiori mi hanno invitato a fare tutto il possibile per aprire le scuole in sicurezza, anche con orario ridotto, proprio per dare un segnale positivo ai ragazzi e ai bambini. E da questo punto di vista le posso dire che i bambini hanno compreso benissimo, erano tutti sia ieri che stamattina sereni, sorridenti, gioiosi, felici di potersi riappropriare di questa cosa così importante come la scuola. Chi non ha capito questa gioia e l'ha tramutata in polemica, in tensione, in strumentalizzazione, sono altri. Ecco, però in che modo, quindi, cioè, è stata fatta la giornata a scuola con questi bambini? Perché la foto, la famosa foto che li ritrae in ginocchio davanti alle seggiole, rappresenta che cosa? L'ordinario andamento della mattinata? No, rappresenta un momento che sarà durato, a quanto mi hanno riferito gli insegnanti, non più di 10-15 minuti, in cui i bambini stavano disegnando nella posizione che ritenevano spontaneamente più agevole per realizzare il loro disegno. La giornata di scuola si è svolta con un orario ridotto, sì, perché avevamo anche carenze legate al numero dei collaboratori scolastici, quelli che sono noti come bidelli, sì, e E la scuola si è organizzata con orario ridotto e anche con un approccio per queste prime due giornate che non era quello della lezione frontale, ma dell'attività ludica. Era un ritorno a scuola, un entrare di nuovo a scuola, ma i bambini graduale. Non sono stati seduti in ginocchio tutto il tempo sulle sedie. No. Stati seduti sulle loro seggiole, ripeto, per un orario ridotto, quindi anche compatibile in un certo senso con l'assenza momentanea dei banchi, e le maestre hanno profuso un impegno veramente straordinario per dare a questi due giorni un carattere sereno e gioioso. Senta, visto che molto a cuore. Su questo sono tutti d'accordo, cioè che il personale scolastico, gli insegnanti, i docenti, i commessi, i bidelli, i presidi, i dirigenti, tutti si stanno impegnando moltissimo, magari non tutti allo stesso modo, ma insomma tanto per risolvere questa difficile situazione che è la riapertura in un'era, diciamo, Covid. Lei è finito in mezzo anche a questa polemica, qualcosa che vuol dire, un messaggio che vuole lanciare, insomma è stato messo in mezzo tra chi sosteneva che ci fossero gravi ritardi da parte del governo su questa consegna dei banchi e chi invece dice aspettiamo un po', stiamo facendo il massimo. Guarda, i ritardi ci sono, stiamo tutti facendo il massimo. Io credo che chi veramente è stato preso in mezzo da questa polemica siano stati i bambini. È vero che i volti nella foto sono oscurati, ma nella foto ci sono i loro corpi, le loro persone, e sono stati buttati in mezzo a una polemica politica che davvero non meritavano e che in qualche modo ha sporcato la gioia e la bellezza di un ritorno tanto atteso. E questo lo ritengo grave umanamente, al di là di tutti gli aspetti politici ed organizzativi. Grazie a Renzo Ronconi, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Castelletto a Genova. Dunque la situazione, avete sentito, è questa: i banchi arriveranno oggi pomeriggio, chissà se in questa scuola arriveranno oggi, perché la scuola che è stata fotografata, ripresa e ha fatto il giro del web, chissà in altre scuole i ritardi, insomma, se saranno un po' accorciati questi tempi. Di fatto c'è un ritardo di quasi un mese nella consegna di questi banchi, e le scuole si stanno organizzando come meglio credono, come meglio riescono. Ognuno può giudicare, insomma, i risultati di questa situazione. Adesso invece vogliamo parlare di teatro, perché c'è un appello che riguarda i grandi teatri, in particolare viene dal Teatro alla Scala, perché come sapete dal 15 di giugno ci sono le regole per la riapertura degli spettacoli nel cinema, nei teatri, si può entrare nelle sale fino a 200 spettatori al chiuso, 1000 all'aperto. Ci sono teatri grandi come il Teatro alla Scala dove 200 spettatori sono troppo pochi. Questo è il punto di vista del sovrintendente Dominic Meyer. Sentiamo Daniele Biacchessi. Ha atteso il primo concerto aperto al pubblico prima dell'inizio della nona di Beethoven per lanciare un appello forte alla politica in tempo di coronavirus. Il sovrintendente della Scala, Dominic Meyer, persona franca e sincera, e certe cose non le manda a dire. Il tema è quello della riapertura dei teatri in sicurezza. Uno sforzo economico e logistico di enorme portata che in questi mesi ha fermato le attività di uno dei comparti d'eccellenza la cultura italiana, fatto di professionisti che il mondo ci invidia. Abbiamo bisogno del nostro pubblico e speriamo che la politica ci dia presto la possibilità di avere una capienza più ampia. Ha ragione Meyer, la Scala e lo spettacolo meritano un'attenzione maggiore se è vero che i teatri sono luoghi sicuri perché gli operatori hanno investito e preparato ogni indicazione sanitaria nei minimi dettagli, dice Meyer. Il pubblico è educato, venite tutti con la mascherina, con una disciplina che non si trova in metropolitana, sugli aerei, nei bar, nelle discoteche. Stiamo preparando un futuro per l'arte lirica, per l'opera, per i concerti e soprattutto per la Scala. Ora si attende la risposta della politica, che ha lasciato la cultura all'ultimo posto delle priorità del paese. Uno scarso riconoscimento per un settore per nulla in crisi. Adesso apriamo una finestra di cronaca perché ci saranno oggi pomeriggio a Caivano i funerali di Maria Paola Gaglione, la ragazza di 22 anni morta, lo sapete, dopo essere stata speronata dal fratello trentenne Michele Antonio, che con ogni probabilità non accettava la relazione della giovane col suo compagno trans, Ciro. la difesa di Antonio, che adesso è in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale, è che stava solo inseguendo la ragazza per chiederle di tornare a casa. Fatto sta che questa vicenda ancora una volta ci interroga sull'esistenza di una componente maschilista, macista all'interno delle famiglie, della società italiana, una componente che non accetta l'emancipazione delle figure femminili, in questo caso due, la stessa Maria Paola, ma anche il suo compagno Ciro, che era una ragazza che poi si sentiva uomo. Allora sentiamo intanto la voce di Katy Latorre, avvocato, attivista per i diritti civili. La comunità LGBT è stata invitata dalla famiglia ai funerali di oggi. Sentiamo Katy Latorre, intervenuta questa mattina, 24 mattina, sull'argomento se esista la necessità in Italia di una legge contro l'omofobia. Intanto non abbiamo bisogno di una legge sull'omofobia, ma abbiamo bisogno di riconoscere che in questo paese ci sono diversi episodi di violenza nei confronti delle persone LGBT. Sono 24 anni che aspettiamo questa legge, una legge risponde a un bisogno. Quindi c'è bisogno di combattere l'omo, lesbo, bitrasfobia in questo paese? Io direi di sì, basta leggere tutti i giorni le pagine dei giornali. Quello che è successo a Caivano è ovviamente gravissimo, non è soltanto una tragedia familiare, è anche l'idea che all'interno di una famiglia si possa decidere chi una donna può amare o dovrebbe o non dovrebbe amare. Un fratello che pensa di poter decidere e che dice lei era infetta. Ecco, che il fratello pensasse che sua sorella avesse una relazione omosessuale o con una persona transessuale, comunque pensava che avere una relazione con una persona LGBT fosse qualcosa che la infettasse. Questo è segno di una profonda cultura diciamo macista, ma anche anti-diversità, quindi metto al bando ogni tipo di diversità. E allora, questa è la Katy Latorre, attivista per i diritti civili. Abbiamo detto, oggi la comunità LGBT è stata invitata ai funerali che si terranno alla parrocchia del San Paolo Apostolo, al Parco Verde a Caivano, e saranno celebrati da Don Maurizio Patriciello, storica figura di questa zona. Carmelo Prestisimone, collega che ha seguito questa vicenda, ti chiedo in quale modo, con quale clima si arriva a questi funerali, e anche poi quali sono un po' le ultime notizie sull'inchiesta su questa morte. I giudici dovranno comunque diradare le ultime nebbie su quello che è realmente accaduto. Buon pomeriggio, si arriva con un clima naturalmente di difficoltà, di estrema difficoltà, con tutta una serie di ridda di voci che praticamente insomma hanno completato e definito il discorso difficile di questa brutta storia di cronaca che c'è, esiste, questo lo dobbiamo dire, a Caivano, nel Parco Verde di Caivano, che è un'area molto molto difficile, siamo tra il napoletano e il casertano, nella zona, nella terra dei fuochi, e non è il primo episodio di intolleranza, di storia difficile che avviene in questa zona, perché a Caivano, ecco, proprio nell'area del Parco Verde, in questo contesto urbano molto molto difficile, dove il degrado è presente da troppo tempo, si registrano sistematicamente fenomeni come lo spaccio di droga, la prostituzione, la criminalità, e purtroppo questi sono fattori che sono all'ordine del giorno. Adesso naturalmente, per quanto riguarda poi tutta la situazione delle voci e di quanto naturalmente sta succedendo per quanto riguarda le indagini, si ascolta Ciro, che è il compagno trans di Maria Paola, che ha raccontato appunto delle minacce di morte e delle aggressioni fisiche verso Maria Paola da parte della famiglia di lei, così come ha parlato anche la mamma di Ciro, che dice devono pagare Michele, la mamma e il papà. L'incidente non è assolutamente vero. È una situazione naturalmente dove gli approfondimenti e le indagini ulteriori sono necessarie. Io dico, se mi permetti, Alessio, che occorre, conoscendo la zona del Parco Verde, conoscendo quell'area del napoletano, siamo a Caivano appunto, come dicevamo, tra il napoletano e il casertano, occorrerebbe un osservatorio un osservatorio proprio dedicato a quell'area e che permetta di inquadrare quali sono effettivamente le difficoltà, i disagi delle tante persone che vivono quell'area, perché sono veramente tante le famiglie che abitano quella zona tra il napoletano e il casertano. Purtroppo sono davvero tanti, troppi anni che si registrano episodi di intolleranza, di criminalità, di prostituzione, e si fa poco o nulla per cercare almeno di limitare il problema. Grazie Carmelo Prestisimone, grazie. 13:31, insomma, queste sono le ultime notizie nella fotografia che abbiamo cercato di scattare su questa situazione, e vi ricordo insomma che oggi ci saranno, oggi pomeriggio, i funerali di Maria Paola. Staremo a vedere anche poi quali saranno gli sviluppi dell'inchiesta. Per il momento il fratello resta in carcere, l'accusa è omicidio preterintenzionale con l'aggravante dei futili motivi. Piccola pausa, torniamo tra poco e parleremo, ve lo anticipo, anche della questione mascherine, ancora non tanto per fatto se siano obbligatori o meno in classe seduti, e questo è un giallo delle ultime ore in Lombardia, lo diraderemo tra poco, quanto soprattutto per l'aspetto delle mascherine che diventano rifiuti. L'ISPRA ha calcolato che ci sono fino a 400.000 tonnellate di rifiuti in un anno proprio per via delle mascherine, l'equivalente del consumo di una città di medie e grandi dimensioni. Vedremo di capire insieme a Legambiente se ci sono delle alternative. 349-238-6666, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Nuovo record del debito pubblico, a luglio tocca i 2.560 miliardi. A Como il prete degli ultimi, ucciso ad agire un senza tetto con problemi psichici. Oggi a Caivano i funerali di Maria Paola Gaglione, morta mentre scappava dal fratello che non accettava la sua relazione. La famiglia invita la comunità LGBT. Mascherine, l'ISPRA calcola tra 160 e 440 mila tonnellate di rifiuti da smaltire in un anno. Legambiente propone, cerchiamo delle alternative. Ne parliamo tra poco. 13:37. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. I vostri messaggi al 349-238-6666. Moltissimi messaggi sull'intervista fatta con il preside della scuola di Genova, quella della foto con i bambini seduti in ginocchio davanti alle seggiole, perché non c'erano i banchi. Il preside ha chiarito che quella foto è stata scattata in un particolare momento, ma poi i ragazzi non sono stati inginocchiati tutto il tempo, sono stati seduti sulle seggiole, hanno fatto un'accoglienza a una scuola elementare, anche ludica. Però molti ce l'hanno col preside, perché dicono che invece di arrabbiarsi per la mancanza dei banchi, quasi quasi era orgoglioso per come erano andate le cose. E va bene, invece qualcun altro sottolinea, e qui proprio come ci dividiamo ormai inesorabilmente su tutto in partiti e fazioni, come mai è stata scattata e pubblicata questa foto? Dice Enza, un'altra ascoltatrice, che evidentemente sottolinea come effettivamente questa foto, se è vero quello che dice il preside, che corrisponde a un particolare momento, averla diffusa sui social voleva dire, come dire, cercare di gettare cattiva luce su quella scuola. Il problema c'era, mancavano i banchi, però in quel modo si faceva quasi passare che gli insegnanti facevano stare i bambini in ginocchio, insomma, vedete. Però ecco, questo è lo stato in cui siamo ridotti, mi viene da dire, cioè sempre ad alzare le barricate, chi di qua e chi di là. Cerchiamo un po' di anche guardare e ragionare col proprio cervello, o è troppo questo appello, o è troppo poco, magari troppo poco emozionante, no? Scagniamoci, ma sì, scagniamoci, vai. Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Il ministro per le politiche europee Enzo Amendola ha deciso di presentare una denuncia alla procura per fuga di notizie. A lui tocca coordinare la raccolta dei progetti per i 209 miliardi di recovery fund europei, e qualcuno ha diffuso le schede arrivate dai singoli ministeri un po' alla rinfusa. Oltre 500 proposte per un controvalore di quasi 700 miliardi, il triplo di quanto potremmo permetterci. Un vero assalto alla diligenza, oppure un libro dei sogni. C'è il potenziamento del 5G senza spiegare però come saranno gli accordi con i cinesi, che tanto impensieriscono l'Europa e gli USA. C'è la TAV ovunque, senza sapere se i 5 Stelle hanno cambiato idea. Ci sono piste ciclabili per 1.000-1.000 chilometri, tanto non costa nulla indicare percorsi anche assurdi. C'è la proroga triennale del superbonus per l'edilizia, il piano per Industria 4.0 finalmente riabilitata, il miglioramento dell'uso del contante con la diffusione dei POS, ma ci sono anche le foreste urbane resilienti o il progetto Aria Pulita Reispiriamoci o il piano Piccole Isole 100% green con cablature ai limiti della fantascienza. Insomma, la fatica arriva adesso. Toccherà al governo distinguere tra progetti seri e velleitarismi laddove i secondi sono molti più dei primi, però si farà dopo le elezioni, non si sa mai. E va bene, è con noi adesso, come anticipato, il presidente di Lega Ambiente, Stefano Ciafani. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, l'ISPRA ha stimato ieri fra 160.000 e 440.000 tonnellate di mascherine da smaltire, visto che il materiale sanitario andranno incenerite. Voi, tra gli altri, avete detto cerchiamo anche di trovare delle alternative. Faccio solo una piccola premessa, Ciafani, perché qualcuno dirà ma come, mentre si cerca di far ripartire la scuola c'è una gran confusione, si cerca di fare di tutto di più per comunque far ripartire queste benedette scuole, vi occupate di questo aspetto che può sembrare minore, ma 400.000 tonnellate di smaltimento in un anno equivale al consumo di una città grande, più grande di Genova in un anno, non è poca cosa. Perché dobbiamo preoccuparci di questo aspetto, Ciafani, secondo te? Ma è una questione che inevitabilmente va affrontata e andava affrontata per tempo, come del resto anche la sostituzione, lo smaltimento dei vecchi banchi. Perché insomma non stiamo parlando di numeri molto importanti, quelli delle mascherine, anche se in valore assoluto in termini di tonnellate ISPRA ha dato quelle cifre che lei ricordava, anche se ha detto che gli impianti esistenti oggi in Italia sono in grado di gestire questo aumento di quantitativi prodotti dalla distribuzione dell'usa e getta delle mascherine. Però sappiamo che l'Italia ha comunque un deficit di impianti, per cui qualunque aggravio non è che sia, come dire, a considerare indolore. Sì, durante il lockdown c'è stato un deficit di produzione di rifiuti urbani di 500.000 tonnellate. Ecco, andiamo in pari quindi con le mascherine. Sì, esatto, per quest'anno andiamo in pari, poi il prossimo anno no, magari, per quest'anno andiamo in pari. No, ma il punto è questo, il governo deve fare pace con se stesso, perché a questo abbiamo detto, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Ambiente ha fatto con il Ministro Conte e Costa ha fatto azioni di comunicazione, informazioni sulle mascherine riutilizzabili contro l'usa e getta. Okay. Il Ministero della Salute attraverso l'Istituto Superiore di Sanità ha messo in campo il processo di certificazione delle mascherine lavabili, per cui una parte delle aziende italiane si erano attivate, perché ci sono state aziende che nel nostro paese hanno riconvertito delle produttive, certo, e hanno prodotto dei manufatti da certificare, lo faceva il Ministero della Salute. Poi il commissario Arcuri e il CTS indicano al ministro Azzolina inizialmente prevedere solo l'uso delle mascherine soggetta contro quello che facevano gli altri ministeri. Noi quello che abbiamo detto è: se c'è un problema di smaltimento delle scorte di mascherine chirurgiche usa e getta da smaltire, pagate con i soldi dei contribuenti, lo si dica. Ma non si dica che le mascherine usa e getta di tipo chirurgico sono più sicure delle mascherine lavabili, perché altrimenti tutto quello che è stato fatto dal governo nei mesi scorsi è assolutamente un controsenso. Quindi il concetto che è che ci sono mascherine, le une ma anche le altre, mascherine sicure, lavabili, che quindi consentirebbero la sicurezza e anche, esatto, un minor aggravio di termini di rifiuti, spiegando dall'Istituto Superiore di Sanità e spiegando agli studenti come le devono utilizzare, quante ore le devono utilizzare, quando vanno lavate, insomma tutte le indicazioni che sono state già previste nell'atto di certificazione del Ministero della Salute. Ma dire che le chirurgiche usa e getta sono più sicure è una sciocchezza tecnica e politica. Allora, un'ultima cosa sulle mascherine, poi tocchiamo anche un altro argomento, che questo forse è una buona notizia. L'argomento mascherine lo chiudo con un chiarimento, credo, spero di poter fornire sull'utilizzo in classe in Lombardia, perché è circolata, ne ha parlato anche Alessandro Milan questa mattina, la circolare della regione Lombardia che obbligava nelle scuole l'uso della mascherina anche da seduti. Allora, stando a quello che siamo riusciti a capire, forse è arrivato un chiarimento nelle ultime ore che specifica che questo non è necessario, non è obbligatorio, quindi dovrebbe esserci un passo indietro da questo punto di vista, quindi non obbligatorietà seduti delle mascherine, però col beneficio, tra virgolette, perché è una precisazione di poco fa. Ciafani, un'ultima cosa invece riguarda il decreto semplificazioni e quella che io ho definito forse una buona notizia, ma l'avete detto voi per primi, la semplificazione delle procedure per l'abbattimento degli abusi edilizi, è così? Sì, è così. Allora, il decreto semplificazioni ha perso tutte le sfide che si dovevano praticare sulle semplificazioni, sulle rinnovabili, sull'economia circolare, sulla lotta alla crisi climatica, sull'economia verde in generale. Questa sfida è stata persa. Anzi, per certi versi ha complicato su alcuni fronti, ecco. Ed era complicare ulteriormente, perché questo paese ha bisogno di semplificazioni. Vere, però, sì, non annunciate. Invece, per quanto riguarda sugli ecomostri, è stata approvata una cosa, un emendamento che noi scrivemmo 10 anni fa, è stato presentato da prima firmataria Loredana De Petris. Questo emendamento prevede, ed è diventato legge, che gli abbattimenti delle costruzioni abusive sul territorio, se non li fanno i comuni entro 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza passa ai prefetti. Ecco. E questo permetterà, è una svolta, lo sottolineo, perché toglie dal ricatto elettorale gli abbattimenti delle costruzioni abusive. Perché passa da una questione politica a una questione, diciamo, prefettizia, che è tutt'altro binario. Questo metterà in campo una nuova economia, perché ci sarà l'economia del settore delle costruzioni che avrà una nuova attività sul territorio. Speriamo, devo chiudere. Grazie Ciafani di Lega Ambiente. Piccola pausa, torniamo tra un istante con Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.